E siamo qua, lontani, terra luna. Da troppo tempo cerco la meta, ma il mondo corre, io non sono un atleta. Per scappare non mi basta il pianeta. Per scappare non mi basta il pianeta. Da troppo tempo cerco di volare via. Da troppo tempo cerco di volare via. Da troppo tempo cerco di volare via. Volare via. Volare via. Vivo in un mondo di gnavi. Scrivo e non vado mai in pari. Tutti che pensano di essere bari, ma sono schiavi e ne sono ignari. Non basta più fare i bravi, bravi. Poi lo squallore non è che lo lavi. L'amore non c'è nemmeno se scavi. Netto nel cuore di cavi. Cani sciolti tra i manigoldi. Frasto in Italia. Shit Nation. Faccio sogni in cui faccio i soldi, ma è solo infamia. Inception. Largo raggio, rime che spaccio, con cui ti schiaccio. Insetto. Sabotaggio da fuori piaccio. Dentro il disagio. Inserto. Disetto. Getto le armi, non puoi parlarmi, sei ristretto. Io non ti sento, vinco lo scettro. Dopo l'oggetto per dispetto. Troppi drammi, troppi grammi. Noi troppi in armi del rispetto. Io ho fatto un patto con Satana, dopo la paga l'ho disdetto. Il re mi ha dato il male senza aver la cura. Cura. Mi ha fatto male, ma ho la testa bella dura. Dura. Spacco per natura, cago merda pura. Tra me e gli altri la distanza è tipo terra luna. Da troppo tempo cerco la meta, ma il mondo corre, io non sono un atleta. Per scappare non mi basta il pianeta. Per scappare non mi basta il pianeta. Da troppo tempo cerco di volare via. Da troppo tempo cerco di volare via. Da troppo tempo cerco di volare via. Volare via. Volare via. Stringo il mio destino in mano, dal tredicesimo piano. Mi dici sei un uomo malato, fra come se ne esistesse uno strano. Non fingere che ci vogliamo, nah. Per vivere un pessimo piano, nah. Resto lo stesso fottuto che sono, credevi dicessi che ti amo. Quando la notte mi sveglio coi tagli, nella merda respiro coi boccagli. Buoni propositi fanno i bagagli, prendo i narcotici per i cavalli. Dentro i depositi con i bavagli, che faccio fuoco sugli ammiragli. Nella vita ho fatto tanti sbagli, ma non posso fare altro che ammirarli. Ammirarli. Meglio che passi, prendo tutto, che poker d'assi, sono ermassi, noi e voi, noi e voi, pistole e sassi. Bang. Le tue cose non le guardo, piangeresti se le commentassi, commentassi. Liricamente salti in aria se spingo tre tasti. Sanguinare sul foglio, per arrivare sul podio. Tu vuoi prendere il nostro posto, vuoi patinare sull'olio. Da come mi guardi, puoi scrivere un manuale sull'odio. Non mi puoi bucare l'orgoglio, hater flussi quando non muoio. Viaggi. Da troppo tempo cerco la meta, ma il mondo corre, io non sono un atleta. Per scappare non mi basta il pianeta. Per scappare non mi basta il pianeta. Da troppo tempo cerco di volare via. Da troppo tempo cerco di volare via. Da troppo tempo cerco di volare via. Volare via. Volare via.